I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. In questi giorni di grande frenesia per, diciamo, l'approvazione definitiva della legge di stabilità, che poi altro non è che la vecchia legge finanziaria, c'è un aspetto che merita una certa attenzione. È un aspetto che ha a che fare con una tecnica legislativa solo apparentemente complessa. Che cosa succede? Il Parlamento sempre più spesso approva nuove leggi, approva nuove riforme, ma in realtà queste leggi e queste riforme, per diventare realmente efficace, hanno a loro volta bisogno di altri provvedimenti di attuazione, di decreti ministeriali, di regolamenti. È un po' come le bamboline matrioska, con la norma di livello superiore che al suo interno ne prevede un'altra e poi un'altra e poi un'altra ancora e così via. Facciamo insomma tante leggi, approviamo tante riforme, però abbiamo una certa difficoltà nell'attuarle, perché per un motivo o per l'altro manca sempre un provvedimento di attuazione, un provvedimento attuativo. Per rendersi conto del problema, si deve pensare che gli ultimi tre governi hanno approvato riforme che prevedono 1000 tra decreti e regolamenti di attuazione. Di questi ne sono stati approvati poco più del 50%, lasciando quindi metà delle riforme in mezzo al guado. Il governo si sta impegnando a recuperare terreno e il ministro dell'economia ha promesso 300 decreti attuativi entro gennaio. È una promessa che non va mancata, perché di questo problema alla fine si è accorta anche l'Unione Europea, l'Europa, che infatti sempre più spesso ricorda all'Italia che approvare le riforme è importante, ma altrettanto fondamentale è farle marciare. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. In questo momento di grande incertezza sui mercati finanziari, il franco svizzero sta riscoprendo la sua tradizionale vocazione di moneta rifugio. È una vocazione che nasconde però anche un rischio, cioè il rischio dell'eccessivo rafforzamento del franco a danno dell'economia elvetica. La Banca Centrale Svizzera, che da anni è impegnata a difendere il cambio del franco, ha così deciso di introdurre tassi negativi sui depositi bancari. Significa in pratica che le grandi banche, i grandi fondi dovranno pagare per tenere i loro capitali parcheggiati a Berna o a Lugano oppure a Zurigo. Cerchiamo però di capire che cosa sta succedendo. Ci sono i noti problemi dell'area europea, ci sono le tensioni geopolitiche e recentemente il rublo è sotto pressione sia per le sanzioni internazionali alla Russia sia per il crollo del prezzo del petrolio. È proprio in momenti come questi che gli investitori vanno alla ricerca di attività e beni sicuri, esattamente quello che accade ora con il franco svizzero, e sembra siano proprio i capitali in fuga dalla Russia ad approdare in Svizzera con la valuta elvetica, che rischia di apprezzarsi e di penalizzare fortemente l'export svizzero, visto che un franco forte diventa un freno alle esportazioni. Ecco perché la Banca Centrale Svizzera, proprio per frenare l'afflusso di capitali dall'estero, ha scelto di introdurre il tasso bancario negativo, che, dicono le autorità svizzere, non avrà effetto sui piccoli risparmiatori, ma solo sui fondi, sulle grandi banche, cioè su chi in momenti di instabilità preferisce spostare in porti sicuri enormi quantità di denaro. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it.